Io vorrei chiedere una cosa, una curiosità. Secondo te è possibile oggi un'esperienza come quella di Radio Alice? E non con la forma della radio? Ma sì, io penso di sì, penso che siano, esistono continuamente forme diciamo, da un punto di vista più anche banale, esistono continuamente forme spontanee di auto-organizzazione della comunicazione. Sempre. Ci sono sempre e ci saranno sempre. Un giorno era il giornale, il ciclostile, dopo è stata la radio, oggi sono più i siti internet, ho più perplessità sulle telescritte. Sono i siti internet, sono queste forme di comunicazione diverse. Io penso semmai che un'esperienza come le radiolice non abbia tanto la sua forza e peculiarità nel fatto stesso, cioè nel fatto di essere una radio. È quello di avere posto un problema che invece quello accade più raramente che venga posto, cioè del... come posso dire, che non banalmente, lo esprimo molto banalmente, che non basta fare dei discorsi diversi, bisogna anche farli in un modo diverso. Questo secondo me rimane uno dei grandi ostacoli della, come dire, della, ad esempio della comunicazione dei movimenti, che trovo che sia è una delle ragioni per cui mi interessava la Delice. Non si è andata avanti oltre lì. Il paradigma dominante è stato un altro. È stato quello sostanzialmente di fare la comunicazione ufficiale mutata di segno. Ti faccio la controinformazione. Come dice a un certo punto uno della radio, il nostro compito, non volevamo fare la controinformazione, era esattamente quello che volevamo fare. Dovevamo fare un'altra informazione, che non voleva dire solamente raccontare di altri fatti. Quindi raccontare, che so, la fabbrica, piuttosto che le donne, piuttosto che il proletariato giovanile, non è solo parlare d'altro, è parlare in un altro modo. E quindi una riflessione che parte dal linguaggio. Con questa intuizione, che all'epoca era molto forte, oggi e sì, diventata parte integrante dei discorsi teorici sulla comunicazione anche dei movimenti, ma poi secondo me non viene presa nella sua radicalità e nella sua, come posso dire, fino in fondo nella sua potenzialità. Cioè il fatto che il linguaggio non è uno strumento, il linguaggio è la realtà, è il nostro modo di vedere la realtà. È la nostra espressione della realtà e quindi come tale noi sappiamo che la realtà modifica il linguaggio, ma, e questa è la parte, come posso dire, conservatrice della preposizione, la parte rivoluzionaria è il linguaggio può cambiare la realtà. Questo tipo di coscienza di che cosa sia la comunicazione, secondo me è molto carente. Io, ad esempio, personalmente, nel campo del così, rimaniamo semplicemente al campo del cinema, io personalmente sono stufo di film che si dicono di sinistra, ma che utilizzano un linguaggio né più né meno identico a quello uno sceneggiato televisivo di prima serata, e non si interrogano mai e mai e mai, pensano che il fatto che tu dici un messaggio di sinistra basti, che era esattamente, tra l'altro storicamente, quello che pensava ad esempio Paietta. Un breve così aneddoto: nel 1946 Paietta viene incaricato della comunicazione del PC e convoca all'epoca una serie di cineasti vicini, tra cui Luchino Visconti, e dice: compagni, non me ne frega niente voi fate l'arte. Voi mi dovete fare i cinegiornali dell'Istituto Luce, ma cambiandoli di segno. Cioè, devono essere di sinistra. Cioè, non capendo che non era il messaggio vero di quei cinegiornali, non era l'apparente messaggio politico, quanto il suo linguaggio, il linguaggio di quei cinegiornali, era il vero significato. In anni recenti questo significa, ad esempio, nella esaltazione, secondo me, molto rischiosa, di una serie di cineasti che fanno film di sinistra o di con un messaggio politico apparentemente alternativo, ma la cui forma nel profondo è una forma che non mette minimamente in discussione la propria natura. E questo per tornare alla tua domanda, questa secondo me è la vera forza di Radio Alice e la difficoltà a ripeterla, la grossa difficoltà a ripeterla.